Amici di Radio Italy, bentornati. Questa puntata è dedicata a Teresa Pisanò. Una brava professoressa d'italiano, un interprete e soprattutto un'inviata speciale del programma RAI Overland. Overland 15 è un programma condotto da Beppe Filippo Tenti ed è un viaggio televisivo lungo la Via della Seta, andato in onda l'anno scorso nel mese di luglio. Paese meraviglioso, un paese con una storia millenaria ed una cultura carismatica. Teresa è con me oggi a Radio Italy per parlarmi del suo viaggio e per me è un grande onore averla ospite. Allora, proviamo un po' se il collegamento Skype va bene. Pronto, Teresa? Ciao, Rocco! Ciao, Teresa! Che piacere, come stai? Piacere mio, tutto bene, grazie. Innanzitutto, grazie per questa chiacchierata intervista. Figurati, grazie a te. Ma dove sei adesso? Adesso sono a Taipei, a casa. Senti, tu sei insegnante di italiano, sinologa, blogger, inviata RAI. Inviata RAI è una parola grossa. Eh beh, sì, dai, poi ne parliamo di Overland. Sì. Come preferisci essere definita? Ma in realtà sono semplicemente una salentina in Oriente. Quindi sei pugliese? Sì, sono pugliese, salentina per la precisione. Salentina, e ti manca la tua Puglia? Beh sì, la Puglia mi manca sempre, il Salento mi manca, e gli odori soprattutto, mi mancano molto gli odori, non lo so, il profumo d'inverno, dei caminetti e delle bucce di arance, quello d'estate, quello dell'estate, di peperoni arrostiti, wow, che fa la nonna, e la menta fresca. Wow, sono gli odori quelli che mi mancano di più di casa mia. Che bello, i colori. Mediterraneo da mangiare, la montagna là e la strada che piano vien giù tra i pini e il sole, un paese mediterraneo da scoprire con le chiese. Cosa ti ricordi di Shanghai? Shanghai è stata un'esperienza molto positiva, ero più giovane, avevo tanti amici, il lavoro che mi piaceva, simpatici colleghi come te. Grazie. Una città in movimento, e mi ricordo la continua scoperta, perché comunque ero a Shanghai per la prima volta dopo solo 2 mesi a Pechino, ma breve tempo, e quindi la mia prima volta in Oriente reale è stata a Shanghai, e uscire fuori e stupirmi per ogni cosa, scoprire tante cose nuove, è stata una cosa interessante, quindi un'esperienza sicuramente molto positiva. Ti aspetto a Shanghai, quando vieni andiamo a prendere un caffè insieme, ok? Esattamente, non vedo l'ora, guarda, di tornarci. Poi sei stata anche a Milano. E non ho un ricordo eccezionale di Milano, è una città frenetica ma anche molto superficiale, secondo me. Quella lunga scia della gente in silenzio per via che prega piano sotto il spontaneo da soffrire. Sotto il sole. E ritorniamo a Overland. Sì. Come ti è capitata questa occasione di poter partecipare a questo programma di Rai 1? Guarda, è successo tutto così per caso. Pensa che quando l'ho saputo ero a Bali, in vacanza. E dovevo partire... A Bali o a Bari? A Bali, Indonesia. Con la L, non con la R. Sì, diciamolo, sì. Perché il nostro pubblico è fatto particolarmente di cinesi, quindi poi alla fine... Sì, infatti. Niente, io avevo sempre seguito Overland, sono una fan sfegatata, ho visto tutte le puntate e quindi ero anche fan della pagina Facebook. Così un giorno ho scritto alla redazione per chiedere quando sarebbero cominciate le nuove puntate, dove sarebbero andati, quindi qual è la prossima meta, perché era da tanto che non avevo più visto il programma e che non trovavo nessuna notizia su internet. E niente, dopo un po' mi scrive proprio Beppe Tenti. Ovviamente nella mia email avevo scritto chi ero, che cosa facevo e c'era poi in calce l'indirizzo del mio blog. E dopo poco, appunto, quando ero a Bali, mi scrive Beppe Tenti dicendomi che avevano bisogno proprio di una persona come me perché sarebbero andati in Cina e che quindi cioè la domanda era: fra una settimana partiamo, vieni o no? Accidenti, proprio. Sì, incredibile. Quindi niente, ho avuto un attimo di smarrimento perché comunque si trattava di un viaggio pesantuccio, però poi sono tornata a casa da Bali con la L e ho rifatto le valigie e sono ripartita di nuovo. Dove vi siete dati appuntamento con la troupe televisiva? Ci siamo incontrati a Xi'an. Ah, Xi'an. Sì. Sì, ci siamo incontrati lì e abbiamo fatto praticamente in quasi 2 mesi 16.000 chilometri in macchina. Quindi praticamente tu sei una Marco Polo adesso. Sì, ne sai più tu di Marco Polo. più o meno, sì. Hai visto tutta la Cina? Sì, la Via della Seta praticamente, abbiamo attraversato dalla Cina e siamo ritornati indietro, quindi da Pechino, Xi'an, Lanzhou, sino ad arrivare a Kashgar, quindi nello Xinjiang, al Tai, all'estremo nord, poi Inner Mongolia e poi di nuovo Pechino. Immagina quante persone ti invidiano, io sono il primo. Sì, sicuramente. Sì. Ma non è tutto rose e fiori come sembra comunque in televisione. Che ritmi avevate, Teresa? I ritmi erano veramente tosti, a volte non c'era neanche il tempo di mangiare, mangiavamo una banana tutto il giorno, perché comunque c'erano dei tempi che dovevano rispettare, con le riprese, l'invio poi dei filmati in Italia, e quindi era tosto per questo, ma poi anche per le condizioni, perché comunque non andavamo in alberghi a 5 stelle, abbiamo anche dormito diverse volte nel deserto, quindi con le tende. Io ho dormito in macchina però, addirittura. Sì, non me la sono preparata la tenda, troppo tempo, arrivati lì eravamo già distrutti, loro tutti uomini, tra l'altro io l'unica donna in un gruppo di 8 persone. Stavo dicendo che tu sei già una bellissima donna e nelle foto che ho visto su Facebook quando stavi là durante il viaggio per questi posti bellissimi della Cina eri ancora più bella, affascinante, con dei bambini stupendi. Troppo buono. No, questo è un dato di fatto. A proposito, qual è la tua pagina Facebook? È Asia-Rai sito monamour.com e blogspot.com. Aia, solo che questo è, è bloccato in Cina, però comunque per sì. La pagina Facebook è solo Asia Monamour, se qualcuno utilizza VPN può accedere. Va bene, ma comunque il potere della rete è grande, non è che ci seguono soltanto qui dalla Cina. Poi metteremo anche questi podcast oltre il firewall e quindi ci sentiranno anche gli amici italiani e non solo italiani. Sì. E quindi sicuramente lo rifaresti sto viaggio, no? Una volta basta. Sì, lo rifarei sicuramente. Adesso, dopo averlo fatto e ripensandoci, è stata comunque un'esperienza eccezionale, un'esperienza umana prima che professionale. Eri l'unica donna in mezzo a tutti. Sì, l'unica donna, sì. Ma sicuramente ti coccolavano, eri la loro sì, mascotte. Sì, certo, mi coccolavano e io, sai, perché tutta questa concentrazione di testosterone a volte creava delle piccole esplosioni e quindi io cercavo di tenerli anche tranquilli, rassicurarli e calmarli quando c'erano magari dei problemini. Prima parlavi di odori, però girando tutta la Cina ne avrai sentiti di aromi. Sì, infatti. C'è qualche posto che ti ha lasciato qualche impressione in particolare? Sì, delle cucine strane. Uno dei posti che mi ha colpito di più è stato sicuramente Kashgar. Nome, no? Evoca un po' di, non lo so, di fantasie esotiche. Il posto è bellissimo e c'è un centro storico che purtroppo ne è rimasto un pezzettino in quanto stanno distruggendo tutto purtroppo, ma è meraviglioso, un fatto di queste case di sabbia, un po' come da noi, senza i tetti, no? Con uno stile un po' nordafricano, comunque arabo. Che bello. Loro sono musulmani, quindi anche l'abbigliamento rispecchia molto quello dei paesi arabi e della Turchia soprattutto. Gli odori, sì, sicuramente del loro pane, dell'agnello, e poi i mercati dello Xinjiang, soprattutto quello di Kashgar, sono fantastici, un'esplosione non solo di odori, ma appunto anche di colori. Quindi sì, è stato il posto che mi ha colpito di più, quello più diverso, e poi questa umanità variegata, queste facce diverse, questi lineamenti diversi. Capitava a volte di vedere magari delle persone bionde ma con gli occhi a mandorla, oppure anche questa con gli occhi è a Cina, mandorla, eh? Ma azzurri. Anche questa è Cina. Bella concentrazione di minoranze etniche e di fisionomie miste. E hai mai avuto paura durante questo viaggio? Sì, sì, ho avuto paura soprattutto quando ci fermava la polizia cinese. Perché? Perché siccome lì in Xinjiang io dovevo indossare il velo. E non lo so, forse un po' il trucco con l'eyeliner che mi faceva gli occhi allungati, un po' perché essendo meridionale ho un po' i tratti arabi, il naso potrebbe essere arabo, ma ci fermavano per me, ci fermavano per me perché loro credevano che io fossi una spia, cui pura, tra l'altro. Una spia. Vinti che io fossi shingianese. Aia. Sì, e anche gli shingianesi stessi credevano che io fossi uigura come loro, e infatti a me non parlavano in cinese, ma parlavano in uiguro. Beh, allora, in questo siamo un po' simili, perché anche a me qua a Shanghai, quando mi incontrano per strada i shingianesi, mi cominciano a parlare, ah, brava, brava, no. Sì, vedi, pure io sono meridionali. Arabo, meridionale, sì, infatti. Abbiamo delle parentele, insomma, siamo parenti lontani, ecco. E orgogliosi di esserlo. Infatti, esattamente, esattamente. Questo è stato un attimo, sai, ci lasciava, perché comunque ti trovavi di fronte a questi poliziotti addestrati con queste facce cattive, massicci, che dicevano scendi dalla macchina, e io dicevo perché, tu sei uigura? No, non sono uigura, sono italiana. E i poliziotti sono dell'etnia Han o shingianesi? Sì, sono Han, e poi ci sono anche quelli uiguri, però soprattutto Han. Ah. E lì in tutta la zona dello Xinjiang, soprattutto per gli attentati che ci sono, e in quel periodo, tra l'altro, quando noi siamo stati, ce ne sono stati diversi, anche nei posti dove siamo stati noi, uno in particolare a Hotan, praticamente dopo 2 o 3 giorni che noi eravamo andati via. E quindi la presenza della polizia cinese è massiccia, sì, quindi fanno tantissimi controlli, ci sono carri armati addirittura per strada, sì, in assetto di guerra proprio. Finisce così la prima parte dell'intervista a Teresa Pisanò. Se volete scoprire di più della vita, dei viaggi, degli amori di Teresa, vi aspetto nel prossimo episodio di Radio Italy, condotto da Rocco Carbonaro. Se volete invece mandarmi un'email, vi ricordo il mio indirizzo QQ. Visto che tutti i cinesi usano il QQ, così è più facile per restare in contatto, giusto? Allora è 86808917 @qq.com. Grazie ancora e mi raccomando, ci sentiamo prossimamente con Teresa Pisanò. Ciao!